Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. 800 24 00 24. Andare a scuola e trovare come prima cosa, così buttata lì appesa a un corridoio dopo aver fatto le scale, il primo piano, eccetera, essendo adolescenti, essendo nella fase della vita in cui si scopre la propria sessualità, trovare che cosa? Un bello scatolone, una rivendita, ma non ci sono sigarette, che già insomma sarebbe una cosa un po' dubbia, ambigua. Non ci sono brioche, ci sono preservativi. E quei preservativi sono bandiere di una ideologia. Attenzione, io ho un'opinione molto netta, sono contrarissimo. Non contrario, nel senso, non penso che si debbano vietare i preservativi, ma contrario a tutto ciò che fa dei profilattici, dei contraccettivi di ogni genere, del giorno prima e del giorno dopo, una bandiera di libertà, di scelta. Sono rimedi tristi, avvilenti, ai quali si può naturalmente in certi casi ricorrere seguendo i dettami della propria coscienza, ma chiunque abbia una responsabilità educativa, il missionario in Africa, eccetera, deve sapere che vanno trattati per quello che sono, non bandiere ideologiche. Ora, noi abbiamo qui un caso interessante, perché vi farò conoscere, lo conoscerò io stesso, non ne sapevo niente, Gianluca Peciola. Gianluca Peciola è consigliere della provincia di Roma, del gruppo di Sinistra e Libertà, sono quelli di Rifondazione, che però non sono andati con la svolta militantista di Ferrero, sono con Vendola. Vendola è il presidente della Regione Puglia, e quel ragazzo, quel giovane uomo, molto intelligente, molto capace dal punto di vista oratorio, con idee anche molto, molto, in un certo senso molto moderne. Comunque sono comunisti di tipo nuovo, e Gianluca Peciola sa fare le cose per bene, cioè ha fatto una buona mozione asettica, che è stata approvata dalla provincia di Roma e che appunto consente, il tema della trasmissione di oggi, di mettere questi scatoloni con i preservativi nelle scuole, naturalmente soltanto, perché mica è stupido, Peciola è bravo, cioè giustamente ha dei valori, incorpora dei valori, io penso che sia perfettamente in buona fede, come lo sono io d'altra parte. Insomma, lui dice, decidono i preti, cioè, i presidi, c'è cioè l'autonomia scolastica, nessuno vuole fare qualcosa di antieducativo, anzi si cumulano con l'educazione sessuale questi preservativi a scuola, e quindi insomma è una cosa di consapevolezza e libertà. Infatti l'hanno chiamata la campagna Consapevolezza e Libertà. Si è liberi perché si può decidere a favore del preservativo nel momento in cui si entra a scuola. Il luogo della educazione, quella che una volta si chiamava l'educazione liberale, il luogo dove si dovrebbe studiare Platone e sapere che cos'è l'amore, anche in modo scandaloso, perché l'amore di Platone era un amore pederastico, aveva dei significati, delle sublimazioni di tipo pederastico, però si tratta di cultura, educazione, grandi idee, istanze che vengono dal profondo dell'antica cultura pagana, poi la loro metamorfosi, la loro trasformazione, l'amore cristiano, l'amore, l'eros, l'agape, la carità. Insomma, in quel luogo lì, no, c'è lo scatolone dei preservativi subito all'ingresso nel corridoio. Ma mi sembra francamente una cosa un po' curiosa, però fatta bene, ripeto, lo sentiremo adesso Gianluca Peciola. Penso che sosterrà argomenti molto, come si può dire, non insinuanti, perché non si tratta di fare una battaglia tra furbi, argomenti vividi, asettici, forti. Attenzione, ci sono le malattie infettive, l'educazione sessuale è anche questo, dare la possibilità di avere un preservativo a portata di mano, non andarselo a prendere fuori, ma proprio là, a scuola, nel luogo dell'educazione. Secondo me no, secondo me invece questa è ideologia, falsa coscienza della realtà, un tentativo appunto di introdurre delle bandiere improprie dentro la scuola. Oltre che con Gianluca Peciola ne discuteremo con Maria Rita Munizzi, presidente nazionale del MOIGE, il Movimento Italiano Genitori. La dottoressa Munizzi è evidentemente su posizioni più simili alle mie, contrarie a questa mozione che invita a mettere i preservativi nelle scuole. Ne discuteremo anche con Giacomo Samek Lodovici, ricercatore di filosofia morale presso l'Università Cattolica di Milano, editorialista di Avvenire, e con Camilla Raznovic, conduttrice televisiva molto celebre, che ha condotto per 7 edizioni il talk show Loveline, dedicato al sesso, all'amore e all'educazione sessuale su MTV. MTV o MTV è il canale per gli adolescenti, il canale per i giovani, per i ragazzi, insomma, che ha quel tipo di target, scusate la parola oscena, target, cioè ha quel tipo di bacino di utenza, certo è più lungo di target. Bene, Gianluca Pecciola, buongiorno. Buongiorno a voi. Come sta? Dunque, io volevo chiederle intanto una notizia. Lei ha scritto al vicario del Papa a Roma, Monsignor Vallini, Sua Eminenza Agostino Vallini. Esatto. Una lettera molto corretta, molto bella, che io ho letto, o almeno ne ho letto gli estratti che sono stati ripresi dalle agenzie di stampa, nella quale gli dice, guardi che, perché Vallini ha protestato contro la storia dei preservativi a scuola, e lei gli dice, guardi che noi non abbiamo cattive intenzioni, mica siamo diseducatori della gioventù, vogliamo solo introdurre un principio appunto di consapevolezza e di libertà. Ha avuto risposte? Sì, l'ho avuta ieri, la risposta, ho potuto parlare con Monsignor Filippi, che è il segretario del Cardinal Vallini, e mi ha detto che intorno al 7-8 luglio, quindi la seconda settimana di luglio, ci potremo incontrare con il Cardinale. Ah, magnifico, questo mi fa molto piacere, un segno di attenzione e di curiosità da parte della Chiesa, che non deve solo proclamare i principi naturalmente o gli elementi della sua cultura, ma deve mettersi in relazione con le persone che la pensano diversamente. Dunque lei è convinto che andare a scuola a 14, 15, non so quanti anni sono, quegli anni lì, dai 14 ai 18, e trovare uno scatolone con dentro ogni tipo di preservativo, come quelli insomma nelle versioni commerciali oggi in uso, è qualcosa che ti introduce a un'idea appunto di consapevolezza del fatto che il sesso ha delle conseguenze, per esempio una gravidanza oppure una malattia, perché a quello serve il preservativo, a proteggersi da queste due eventualità, e che dunque devi essere libero di scegliere quel tipo di protezione, invece che un altro tipo di protezione, per esempio l'attesa, per esempio un sesso controllato, sorvegliato, legato al sentimento, all'amore, in cui il piacere è una componente fondamentale, anche esplosiva, ma produttiva, insomma, di qualcosa che si associa meno all'idea di una gravidanza da evitare o di una malattia da evitare. Secondo lei quella è la via? No, lei ha colto uno dei punti centrali della mozione, perché l'atto che ho presentato parla sì della installazione dei distributori dei preservativi presso le scuole, qualora ci fosse ovviamente la richiesta delle dirigenze scolastiche, però l'aspetto centrale della mozione ha a che fare con l'educazione sessuale, con l'orientamento, con l'informazione, e cioè con quel bagaglio di contenuti che i giovani devono assolutamente avvicinare, che ha a che fare con il primo momento di approccio con l'attività sessuale dei ragazzi, che da studi recenti si abbassa sempre di più, e quindi più si è giovani, minori sono le informazioni a cui accede per quanto riguarda Posso fermarla subito? Posso fermarla subito? Lei dice attività sessuale, gli studi dicono, si abbassa il momento in cui inizia, eccetera. Nella mia cultura, nella mia idea, è molto più interessante, molto più importante, molto più significativo, mi rende più felice un mondo in cui del sesso si parla come ne parlano i grandi scrittori o i cardinali o il Papa. Questa roba qui, attività sessuale, livello d'età, è tutta robaccia sociologico-statistica che, come dire, ci avvilisce. Sembra che stiamo parlando dell'attività sessuale degli orangotango nello zoo. Ma che è l'attività sessuale? C'è l'amore nel mondo, non c'è l'attività sessuale. Se lei si concentra sull'aspetto del termine, non andiamo alla sostanza. Ma nomina su consequentia rerum, come lei sa. Esatto. No, quello che volevo dire è che la mozione parla di educazione sessuale fondamentalmente, e cioè dice che le scuole in questo momento sono lasciate sole, perché c'è stata una grande attenzione rispetto alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili negli anni 90, se ne è parlato tanto, ci sono state risorse e interventi economici. Mi sembra che nell'ultimo periodo, dati anche alla mano, cioè le informazioni che ci arrivano dalle scuole stesse, non ci sia un intervento mirato ad aiutare le scuole, i genitori, i ragazzi stessi ad avere informazioni su quello che significa avere rapporti sessuali, perché noi non banalizziamo, come ci ha detto il cardinal Ballini, uno dei momenti più importanti della crescita dei giovani. Anzi, proprio perché gli diamo importanza a questa scelta, cioè alla conoscenza, all'approccio con l'altro sesso, pensiamo che il preservativo possa in qualche modo tutelare ed essere una scelta responsabile nel momento in cui si mette a rischio la sicurezza di un'altra persona. Perché io sfido chiunque a dire, sfido anche lei a dimostrarmi che ci sono, oltre all'assistenza, altre soluzioni ed altri rimedi per impedire la trasmissione di malattie durante l'atto sessuale. No, prima di tutto dovrebbe esserci, lo dico anche per il sottosegretario Fazio o il viceministro che vi ha appoggiato, quindi non è una questione politica. Fazio fa parte del governo Berlusconi, un governo da questo punto di vista, diciamo, un governo di destra. Ora, scusi tanto, certo che ci sono altri modi, c'è la continenza, certo, fino a una certa età, e poi una scelta, diciamo, sessuale ed erotica, che è una introduzione a un progetto di vita in una forma o nell'altra. Adesso non è che sto a fare il bacchettone, c'è la trasgressione fa parte della regola, Ma dico, poi c'è tanta altra roba, per esempio la prevenzione medica vera e propria. Uno sta attento, va dal ginecologo, va dall'andrologo, insomma sta attento a vedere di non avere contratto malattie sessualmente trasmissibili. Poi viene educato a una coscienza del rapporto con l'altro, attento, perché il sesso implica appunto alcune possibilità, quindi fai attenzione, e gli si fa un discorso e si intrattiene con lui un discorso, si instaura un dialogo sul significato della vita, sul significato di un tema come l'aborto e sul significato. Ma no, ma la parola è più importante del preservativo. Il preservativo è meccanico, la parola è spirituale, Peciola. Mi meraviglio di lei, che è un uomo di sinistra che vuole cambiare il mondo. Come lo vuole cambiare? Col palloncino? È uno strumento. Il problema è come viene utilizzato dai ragazzi, se è conosciuto. Ma dai come ragazzi, come vuole che venga utilizzato? C'è un solo modo. Noi ci abbiamo, no, purtroppo ci sono informazioni che ci arrivano anche dalle scuole stesse, che c'è tanta disinformazione rispetto alla necessità e all'utilità del preservativo. C'è anche una solitudine dei ragazzi, perché hanno difficoltà a parlarne con i genitori, hanno difficoltà a parlarne con gli insegnanti. Se noi facciamo quest'opera di disinformazione facendo passare il preservativo come un tabù, non aiutiamo sicuramente i ragazzi a dargli il giusto valore, che non è un valore risolutivo, e non è un valore in sé, è un semplice strumento che, se utilizzato, aiuta a non contrarre il virus. Se non utilizzato, parliamo di adolescenti. Se è uno strumento, vuol dire che il sesso è una cosa strumentale, che è una cosa meccanica, è tanto semplice. Vabbè, Peciola, non siamo d'accordo civilmente. Adesso sentiamo un attimo Camilla Raznovic. Camilla. Sì, buongiorno. Buongiorno, ha visto, abbiamo impostato la cosa, arrivano anche le prime telefonate, eccetera, e c'è chi è d'accordo. Immagino, anche perché sicuramente è un argomento che in qualche modo tocca la coscienza e l'anima di persone che la pensano giustamente, civilmente, come diceva lei, in modo diverso. Io, nella mia esperienza, effettivamente, come lei giustamente diceva, l'Inizio MTV è targettizzata a ragazzi giovani. Io sono d'accordo con lei, voglio dire, nel miglior mondo possibile il sesso dovrebbe essere collegato e legato all'amore, al sentimento, a un'esperienza irripetibile, soprattutto quella della prima volta. Dopodiché si ha a che fare con un mondo reale. Il mondo reale è fatto di ragazzi, teenager, stiamo parlando ovviamente di ragazzi liceali, che davvero pochi strumenti hanno per approcciarsi. Quindi io sono d'accordo, dovrebbe andare di pari passo l'educazione sessuale a un'educazione sentimentale. Ma non l'educazione sessuale, Camilla, mi scusi, l'educazione senza aggettivi, l'educazione liberale, l'educazione a essere uomini. Sì, ma dato qui, non l'educazione sessuale, il sesso è un ingrediente dell'umanità. Nella mia esperienza in 7 edizioni di Love Line, la cosa che più mi feriva, e attenzione, io sono sempre dell'idea che non ci siano mai domande stupide, perché se la domanda c'è evidentemente è perché non ci sono risposte o perché non si sa dove andare a reperire queste risposte, queste informazioni. Quindi c'è davvero, quando io parlo di educazione sessuale, sto parlando di un'educazione che ha a che fare comunque con un componente fondamentale del diventare, come diceva lei, uomo o donna, perché per fortuna il sentimento e quindi poi una vita di coppia, si spera, e non erotica meccanica, ma una vita di relazioni, ha a che fare con una crescita dell'individuo e del teenager che diventerà uomo o donna. Ma se questi teenager non hanno gli strumenti, allora, educativi in generale, per affrontare quelle che sono i rischi, no? Quindi si parlava di gravidanze non desiderate e si parlava di malattie. Ma la gravidanza non è un rischio, è la cosa più bella che è data all'umanità da quando esiste. Guardi, Ferrara, non è un rischio e il sesso non è un'attività. Voi parlate con il linguaggio di un mondo che si è diseducato a parlare di queste cose. Guardi, sta parlando con una mamma che a ore devo essere internata per partorire. Congratulazioni. Congratulazioni, vorrei. Ma vorrei che il pensiero seguisse, diciamo, l'identità profonda. Sì, però io, Ferrara, ho 34 anni. Io parlavo con ragazzini di 16 che mi chiedevano delle cose che, le assicuro, la lascerebbero E prenda per il collo i loro insegnanti, non gli mette lo scatolone con i preservativi. Scusi, se questi ragazzini e i genitori, i sessantottini. Abbiamo fatto una lotta molto lunga, quasi 7 anni. All'offline, no, una lotta nel senso di, appunto, per cercare di l'educazione parte da noi adulti verso il ragazzino, perché, come diceva lei, attraverso la parola può passare un'eredità preziosa. Benissimo, ma se quella parola non c'è, è assurdo che, tra virgolette, io ero contenta che il programma andasse benissimo, però era anche un po' assurdo che fossimo noi a lo so, la capisco, ecco, no? Cioè, è assurdo che il ragazzino debba cercare nei media delle risposte che non trova nella famiglia, nella scuola, negli educatori. Allora dico, se questa è la, io ripeto, nel migliore dei mondi possibili io posso essere d'accordo con lei, non dovrebbe essere scollegato il sentimento dal sesso, la realtà è che lo è, e allora io sono d'accordo nel dare strumenti a questi ragazzi per evitare i rischi possibili. E quando dico rischi possibili non intendo semplicemente una gravidanza non desiderata a 15 o 16 anni con tutto il tormentone Juno che c'è stato negli Stati Uniti, ma intendo anche non solo l'HIV, cioè, voglio dire, non bisogna arrivare lì, ma c'è un ritorno della sifilide in Italia, era sparita, c'è un aumento nelle donne. Ma poi bisogna chiedere a Roberto Volpi su tutte queste statistiche. Sì, esatto. Le statistiche, il mondo vive di statistiche della secolarizzazione. Si danno sempre dati che consentono, per esempio, scusi, adesso ne parleremo dopo la pubblicità, Camilla, ma siccome so che lei è una persona reattiva, intelligente e libera mentalmente, come anche Peciolo, naturalmente. Poi naturalmente parleremo con la dottoressa Munizzi e con il professor Lodovici. Ma voglio dire, il paradosso è questo. Il mondo è investito da una malattia sessualmente trasmessa e legata anche all'uso e al consumo di droghe, quindi di droghe pesanti, eccetera. Si chiama AIDS. Sì. E noi ci inventiamo la favola di un mondo angelico punito da chissà quale cattivo demone, eccetera, demonio, e la reazione è difendersi, eccetera, praticando il sesso protetto. Ma no, ma scusate, ma se è, voglio dire, se l'AIDS nasce dalla promiscuità sessuale, ma perché non è nata una critica della promiscuità sessuale quando si è diffusa questa malattia? Io credo, se lei l'ha fatta la critica della promiscuità sessuale, immagino. Certo, perché lo so. L'ho fatta e la mia risposta è questa. Quello che io ho riscontrato in tanti anni di trasmissione in cui mi sono dedicata e ho parlato con questi ragazzi è che è una battaglia contro i mulini a vento, perché loro non capiscono neanche qual è il rischio della promiscuità sessuale. È purtroppo un segno dei tempi. Bellissima la sua testimonianza, mi apre un mondo. Vorrei parlarle, adesso lei deve partorire, che è un'attività troppo importante, ma appena finito vorrei farle una bella intervista per il Foglio. Che ne so. Vabbè. Grazie. Bene, 800-24, un sacco di telefonate, siamo qui a fine giugno, la terz'ultima trasmissione dell'Elefante, e parliamo dell'amore, insomma, a modo nostro, dei preservativi a scuola. Alcuni ascoltatori e poi sentiamo il Moige e il professor Same Clodovici. Marco da Treviso. Sì, buongiorno, dottor Ferrara. Buongiorno. Buongiorno. A me sembra che si siano un po', non da parte sua, ma si siano un po' maldestramente mescolate le carte. Perché il fatto che le scuole adottino i cosiddetti distributori di profilattici non fa nient'altro che affrancare le famiglie o lo Stato da un sistematico svegliare le coscienze nei ragazzi. Cioè lo Stato mette il profilattico e dice tutto ciò che accade prima a noi non interessa, né l'educazione che viene data dalle famiglie agli adolescenti, né un'eventuale campagna di sensibilizzazione fatta da uno Stato, divertitevi, anarchia totale, poi venite a scuola, inserite la moneta e vi comprate il profilattico e la festa è finita. Non mi pare una cosa giusta tutto qua. Sì, tra l'altro lo Stato direi anche nella loro corporeità, nella loro individualità, nella loro libertà di insegnamento, gli insegnanti, io non penso che gli insegnanti, che un insegnante degno del suo mestiere, della sua vocazione possa, diciamo, sostenere che la soluzione è il preservativo. Un insegnante ovviamente darà quell'educazione non formale, sostanziale, cucita addosso ai ragazzi che ha di fronte, che diciamo punta ad altro, a valori mi sembra un pochino più spessi che non quelli di un palloncino. Grazie comunque Marco. Salvatore da Roma. Pronto? Salvatore, eccoci qua. Lei dice di essere cattolico e di non trovare nulla di male nei preservativi nelle scuole. Sì, Ferrara, io non capisco la sua doppia morale, mi permetta. Prego. Ha fatto trasmissioni per giustificare la libertà sessuale di un signore di 73 anni. Io le dico anche che sono voto anche Berlusconi, quindi non sono un agitatore di sinistra. E adesso vuole insegnare a ragazzini di 14 anni con chi devono andare a letto, la morigeratezza sessuale, eccetera. A me sembra che ci sia una doppia morale. Intanto ci sono due età diverse, 73 anni e 14 anni sono due età diverse, non è una doppia morale, è un giudizio su circostanze diverse. Poi scusi, doppia morale mi offendo, sa perché? Perché io ho firmato un assegno di 250.000 euro, ho messo insieme la gente, ho perso la salute, un anno di vita, per una battaglia sui temi della vita, che sono i temi della sessualità, dell'amore, dei valori, che è finita col presentare una lista contro Berlusconi. Ferrara. Il quale ha detto io sono eticamente... No, Ferrara niente. Lei, doppia morale, se lo tiene... No, se lo tiene, perché io non ho una doppia morale. Posso essere un bacchettone, uno stupido devoto, un cretino, eccetera. Ma doppia morale se lo tiene. Grazie, arrivederla. Allora, Antonio da Roma. Dottor Ferrara, io volevo darvi un'esperienza che parte da un osservatorio privilegiato sull'educazione sessuale, ma meglio direi sull'educazione a rispetto personale ed interpersonale, che è quello di un medico non obiettore. I consultori sanno quante ragazze giovani minorenni attraversano e calpestano i loro pavimenti e ricorrono al giudice tutelare per l'interruzione di gravidanza, non avendo neanche la possibilità, la capacità, il coraggio di avvisare di tutto questo i propri genitori. Sono tante, sono tutte italiane, purtroppo a volte ci sono recidive nelle fasce minori dell'incidente e così via. In questi giorni opereremo una donna che è alla sesta interruzione volontaria di gravidanza, la sesta, e le istituzioni non si muovono rispetto a drammi di questo genere. Si muovono, ma le istituzioni non fanno niente sull'aborto, dormono i sonni proprio. Poi dicono le statistiche, dicono che l'aborto è diminuito. Adesso ne uscirà sicuramente una a fine giugno. C'è una recrudescenza nelle italiane che appartengono a fasce culturali anche piuttosto colte. Però lei questo perché me lo dice? Per dire che bisogna mettere sti preservativi nelle scuole? No, per dire che questo è uno degli aspetti in un puzzle generale che costruisce la dignità della persona. L'educazione sessuale è come l'educazione civica, è una conquista continua, non è una cosa data, non è un bene fruibile perché sta lì, è una conquista, le famiglie vanno responsabilizzate su queste conquiste. Credo che le istituzioni arrivano in un secondo momento, quando arrivano, arrivano come sanno arrivare, a volte demagogicamente, a volte un pochino più profondamente. In realtà credo che questo sia uno degli aspetti di come si costruisce una persona nel mondo. La ringrazio, anche questa è un'opinione molto, molto sensata e interessante. Professor Same Clodovici, ha sentito Camilla e ha sentito anche il medico che ha parlato adesso. Loro dicono, guardate che non c'è niente da fare, non è che tu puoi polemizzare, educare contro la promiscuità sessuale, sesto aborto, lo ha citato adesso il medico, cioè insomma, adesso mica dobbiamo fare dell'apocalissi naturalmente, il mondo è anche bello, c'è un sacco di gente con la testa sulle spalle anche a 14 anni, ci sono valori fantastici, pieni di fantasia, di allegria, di buon umore, però, professor Sameglodovic, il problema è che il peggio è già avvenuto, questo sembrerebbe, e quindi dicono mettiamoli questi preservativi, perché siccome il peggio è avvenuto, almeno c'è un piccolo rimedio strumentale, meccanico. Lei che risponde a questa? Sì, buongiorno direttore, buongiorno, buongiorno. Ai radioascoltatori. Io ho ascoltato attentamente, devo dire che invece penso che sia possibile educare in vista della crescita integrale della persona. Educare viene da educere, cioè tra fuori l'uomo innato dall'uomo in potenza. Io stesso ho occasione di educare i giovani su questi temi dell'amore e dell'affettività con un certo successo, così come mi sembrano molto importanti i dati relativi per esempio all'Uganda, un paese africano dove sono state fatte proprio delle politiche di educazione all'affettività che hanno messo all'ultimo posto l'utilizzo del preservativo, hanno messo al primo posto invece l'educazione all'astinenza o alla fedeltà, riuscendo a ridurre drasticamente i tassi di infezione di AIDS. Ecco, perché una cosa che mi preme dire è che non lo sa quasi nessuno, ma i contraccettivi non sono efficaci al 100%, hanno un tasso di efficacia tra l'80 e il 90%. Se l'argomento fosse questo, però, professor Lodovici, io l'ho letto il suo articolo, vincerebbero sì. Gli ultrasecolarizzatori e gli educatori sì, sessuali. Non è l'argomento perché, principale, ma dicono, è 80-90%, sì, certo. 80-90% è meglio di 0%, no? Sì, però, per esempio, Edward Green, che è uno scienziato non credente, ha proprio messo in luce che la maggior disponibilità e uso dei preservativi non fa diminuire l'AIDS, talvolta anzi ne fa crescere la diffusione. Sono d'accordo comunque con lei che il primo punto è quello di educare, far per esempio capire l'importanza dell'amore, di un amore che è generativo, dove la generatività è la capacità di vivere l'amore come dilatazione della persona, cioè come fecondità fisica, spirituale e sociale, e dove quindi l'amore, che ha anche la dimensione sessuale, è una sfida sfida alla della fecondità contro la sostanziale sterilità del mondo in cui noi viviamo. Vuol dire che come per così dire il frutto esprime al massimo la capacità della pianta, così il diventare genitori esprime un amore che raggiunge il vertice della sua forza. Sì, sì, bisogna stare attenti, secondo me, non so cosa ne pensa lei, dottoressa Munizzi, a non fare il salto troppo lungo. Io stesso, mentre parlo di queste cose, sono molto convinto delle mie idee, che sono simili alla sua, però il salto non deve essere troppo lungo. Non bisogna proporre, la promiscuità sessuale, che ormai è un fatto, che non si può combattere neanche con gli argomenti di Camilla, che è una ragazza vicina ai giovani, che lavora con loro, che costruisce con loro un dialogo quotidiano nei media. E da un lato c'è questo, e dall'altro dice no, la promessa definitiva. No, il piacere fa parte della vita, no? L'eros è una cosa, è un problema, è un mistero che ti si apre anche in modo sconvolgente a volte, oppure no, in modo allegro e realizzato, eccetera. Bisogna muoversi con cautela. Certo, però, se c'è lo scatolone con i preservativi, non ci si muove più, è fatta. Insomma, il significato è univoco, la bandiera è quella. Sì, beh, indubbiamente il concetto che passa qui è di un sesso come prodotto di consumo, non come il vertice, l'arrivo, il punto di arrivo di un processo che coinvolge l'intera persona, l'intero ragazzo, quindi dal punto di vista affettivo, sentimentale, eccetera. E noi siamo fortemente perplessi dinanzi ad una mozione calata dall'alto che non ha tenuto in considerazione l'opinione dei genitori, ma l'opinione anche dei presidi, insomma, ecco, è stato frutto un po' poco democratico da questo punto di vista, quindi siamo perplessi nel metodo ma anche nella sostanza, perché preservativo non è la soluzione a tutti i problemi. Certamente va fatta un'analisi all'interno delle nostre famiglie, cioè come educhiamo i nostri ragazzi, come li prepariamo alla sessualità, ma è un problema anche fortemente culturale. Se noi andiamo a vedere... c'è una telefonata, Roberto da Milano. Buongiorno. Buongiorno Roberto, prego. Ma io appunto, come dicevo alla sua collaboratrice, sono sempre molto stupito di quanto i genitori, le famiglie di oggi deleghino a strutture che per loro natura potrebbero anche non essere attrezzate a farlo. Io sintetizzavo dicendo che l'educazione sessuale dei miei figli spetta a me, vorrei farla io, e eventualmente anche insegnare loro, se proprio è il caso, a usare preservativo, perché a volte a mali estremi possono corrispondere certamente dei rimedi. Però non lo voglio demandare assolutamente a insegnanti, a educatori, a gente che tiene i figli, o anche a distributori meccanici, un euro un preservativo. No, perché poi di questo passo arriveremo ai metal detector, perché portare le armi a scuola. Sentiamo sentiamo la dottoressa Munizzi, che sì, su questa storia dei genitori che educano i figli aveva, insomma, non diceva di sì, diceva di no a quello. No, infatti io sono d'accordo con Roberto da Milano. Roberto, infatti, perché intanto noi non abbiamo delegato niente, nel senso che questa è un'iniziativa che ripeto, ci vede del tutto assenti. Quindi, così come siamo sempre stati fortemente perplessi dinanzi all'educazione sessuale fatta nelle scuole, perché bisognerebbe capire che tipo di educazione sessuale si intende insegnare nelle scuole, perché se il preservativo è poi il frutto, diciamo, accessorio di questa educazione, ripeto, quantomeno fortemente riduttiva. I genitori, quello che vogliono, immagino, io sono genitore, la felicità dei propri figli, quindi un equilibrio. E la sessualità, poiché è un qualcosa di fortemente coinvolgente, che non è soltanto meccanica ma coinvolge l'intera personalità del ragazzo, ripeto, deve essere impostata in quest'ottica di educazione all'affettività, alla comprensione dell'altro e poi ad una scelta responsabile. Ora, la scelta responsabile non può essere solo il preservativo, con i limiti, con le opportunità ci sono altre alternative. Se poi vogliamo fare anche un discorso di salute, la prevenzione di per sé non può essere soltanto demandata ad uno strumento. Certo. Deve essere un progetto culturale. Sentiamo un altro parere diverso da quello di Roberto, Flavia dalla provincia di Messina. Flavia, buongiorno. Buongiorno Ferrara, buongiorno a tutti. Io sono contraria al preservativo, cioè di questi distributori nelle scuole, perché la scuola è un'altra cosa. Sono contraria anche alla alla promiscuità sessuale, però il mondo di oggi è anche quello di ieri. Ma Ferrara, lei non si ricorda quando aveva 16 anni, oppure anche io avevo 16 anni. Insomma, i ragazzi in quell'età è un'età molto difficile. Io sono favorevole al preservativo, ma non è che deve essere la soluzione di tutto. I genitori, specialmente i padri, dovrebbero avere una mentalità molto aperta. Ho capito, lei ha ragione. Se io potessi fare uno scambio, educazione liberale nelle scuole, cioè vera educazione sensata, ecco, no? Che li portano a vedere i film di Michael Moore e poi dopo c'è la cosa, una vera educazione, una vera educazione, cioè un confronto maieutico, un tentativo di rintracciare il significato, il concetto, la giustizia, un'educazione filosofica dei ragazzi nelle scuole, no? Devi lavorare, devi farti strada nel mercato, ma devi anche essere un cittadino, no? Bene, una cosa forte, importante, dove ci sia anche l'identità cristiana, non solo le radici, diciamo, appunto il discorso di Ratisbona di Ratzinger, le radici greche della nostra cultura. Beh, se mi date un'educazione liberale va benissimo anche il preservativo come componente di questa educazione liberale, a mali estremi. Ma Same Cludovici, adesso abbiamo poco tempo, ma nel prossimo blocco vorrei che... Lei ha fatto un'osservazione molto giusta sulla questione che il problema è il luogo. La scuola non è un luogo qualunque. Il preservativo in farmacia ha un significato. Il preservativo per strada, alla stazione Termini, ha un altro significato. Ma il preservativo a scuola è la sconfitta della cultura e della civiltà. Bene, professor Same Cludovici, La scuola è un luogo diverso dalla farmacia e dalla stazione. Il distributore automatico di preservativi a scuola ha un significato diverso. Può dirci le sue idee su questo? Infatti, mi sembra un punto molto importante e fondamentale. Se lo studente trova il distributore a scuola, ma anche in università, come previsto dalla mozione, ma concentriamoci sulla scuola, e con ciò stesso riceve un messaggio, perché non si può presumere di restare neutrali scegliendo una iniziativa di questo genere. Voglio dire, l'argomento tipico che si usa per esempio per l'aborto: se lo Stato depenalizza l'aborto, resta neutrale, lascia la possibilità al cittadino di scegliere: chi vuole abortire abortisce, chi non vuole abortire non abortisce. Ora, io non voglio assolutamente dire che si debbano vietare i preservativi, però voglio dire che se le istituzioni nei loro istituti inseriscono questi distributori, avallano una certa visione dell'amore, della sessualità, quella visione di cui stiamo parlando, di cui lei ha parlato, una visione fondamentalmente meccanica, quasi soltanto istintiva, e quindi trasmettono un messaggio che non è certo quel messaggio. Ecco, sono curioso, professore, di sapere se Gianluca Peciola, che è appunto una persona seria, l'ha dimostrato anche all'inizio della trasmissione, parlando con noi con un certo linguaggio, si rende conto di questo problema. Voi non state proponendo alla provincia una cosa che si fa alla stazione o in farmacia, a scuola? Bisognerebbe innanzitutto però che noi non appoggiamo l'ipotesi, come dire, strumentale e meccanica del rapporto sessuale, anzi un po' il ragionamento, perché dal nostro punto di vista invece io la vediamo come una scelta d'amore e di rispetto nei confronti dell'altro. Cioè, io ho avuto un rapporto a rischio per tutelare la persona verso la quale sto stabilendo un rapporto affettivo e sessuale, adotto ed uso il preservativo. Mi sembra una scelta responsabile, sana, e che va accompagnata da informazioni utili, perché c'è, dice all'Istituto Superiore di Sanità, che c'è un abbassamento della soglia di attenzione rispetto a queste tematiche, cioè al fatto che ci sono delle malattie sessualmente trasmissibili e che allo stato attuale, lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo dice il nostro sistema sanitario nazionale, l'unico strumento valido per impedire il contagio è il preservativo. Dopodiché io sono d'accordo con lei e anche con il direttore del MOIGE. È chiaro che c'è bisogno anche di una relazione di carattere affettivo con i nostri figli, con i ragazzi. Il problema non è soltanto l'utilizzo del preservativo, ma è anche il significato che i ragazzi assegnano al sesso. Ci sono tante componenti in ballo nel momento in cui si sceglie il loro rapporto sessuale. Spesso chi ha una sessualità sregolata ha dietro storie particolari, dietro il sesso nasconde anche ricerche di carattere narcisistico, riconoscimenti affettivi che non ha avuto altrove. È evidente che c'è una vicenda emotiva e psicologica dietro la scelta della sessualità anche precoce. Questo dato non è slegato dal piano dell'educazione sessuale. L'aspetto emotivo, quello che il giovane mette in campo nel momento in cui sceglie di avere un rapporto sessuale, ha a che fare con il tema dell'educazione sessuale. Io la prego di credere, che del fatto che io sono convinto che il sesso non è, anche se mi sembra che la sessuofobia va trattata con più circospezione. Ho avuto occasione di dirlo in una trasmissione televisiva in cui c'era una filosofa, una teologa, diceva sessuofobia, insomma il sesso ha posto dei problemi all'umanità. Ecco, non è una delle cose, è bello, è piacevole, è soprattutto il momento generativo, cioè il sesso siamo noi, siamo la catena della riproduzione allargata, no? L'interesse composto, l'umanità che cresce, figuriamoci. Naturalmente, insomma, c'è quell'elemento misterioso, strano, che ha sempre posto dei problemi dal Genesi ad oggi. Però io sono del parere che il sesso, poi, che gli uomini siano liberi, che possano scegliere, che siano consapevoli, che vogliano mangiare un po' la mela, anche un cattolico, anche un cristiano, io poi non lo sono, ma insomma tutti lo sanno, fa parte della nostra cultura. Il problema e adesso lo dico a Camilla, è che c'è qualcosa che non funziona nel modo di consumare mele nel mondo contemporaneo. Non so se lei è d'accordo, Rasnovich. Io sono d'accordo, e ripeto, quello che era molto frustrante, al di là, ripeto, io tra l'altro non mi voglio far portatrice di nessuna bandiera ideologica, perché né di cultura né di nascita appartengo a delle ideologie, però cerco di leggere la realtà, o ho cercato perlomeno quando ero in MTV, di leggere la realtà, e quello che io dico è, al di là di quelli che possono essere i precetti, le intenzioni migliori degli educatori, e poi riprendo il fatto che la famiglia è stata totalmente assente, perlomeno nella mia esperienza, in quello che io ho visto, perché poi quando arrivano telefonate, dove noi avevamo un siparietto divertente che si chiamava Dictionary, ovvero le parole del dizionario, che riguardavano i sentimenti e la sessualità. Ora, io vi vorrei far ascoltare le risposte. Cioè, la sifilide per loro era una statua, il clitoride era un filosofo greco, e questa è la realtà, al di là delle migliori intenzioni, al di là dei grandi discorsi politici ideologici, dopodiché si ha a che fare con una realtà quotidiana dove questi ragazzi sono persi, dove questi ragazzi hanno bisogno di risposte, come diceva lei, hanno voglia giustamente di mangiare la mela perché è fisiologico e biologico. Dovrebbe sicuramente passare molto di più una cultura e un'educazione attraverso una parola, ma coi dovrebbe purtroppo non si arriva da nessuna parte. È solo questo, è solo per questo che io sono allora poi d'accordo ad arrivare a prevenire con un preservativo sterile, asettico, che non è accompagnato da nessuna chiacchiera, da nessun approfondimento, da nessun senso della vita. Che è triste, io è squallido, non dico che bellezza, ma dico, se siamo arrivati a questo punto, cominciamo a tamponare dove possiamo. Dopodiché è triste che quel gesto non sia accompagnato da un'educazione civile umana che possa far scegliere all'individuo se usare o meno quella macchinetta squallida dove inserisci un euro e ti dà quella cosa lì. Ma questa è la realtà. I format televisivi che si vedono oggi nei canali, tra virgolette, giovani, non è una parola che amo molto, ma insomma, per intenderci, sono degradanti, cioè parlano del sesso e dei sentimenti in una maniera, ed è inutile far finta che i ragazzi, quando poi queste trasmissioni hanno uno share del 40-45%, dove si conoscono due ore dopo, sono in doccia, che hanno un rapporto sessuale, e i ragazzi vedono quello. Allora, tanti discorsi molto belli, molto, molto filosoficamente corretti e alti, perdono improvvisamente, immediatamente la loro altezza, perché si è raggiunti una bassa. Però ecco, qui Camilla invece non siamo d'accordo. Non è che perde, io figuriamoci, penso sempre che ogni volta che parlo sono esposto al ridicolo e alla contraddizione, naturalmente. Certo. Ma io non credo che i miei argomenti e gli argomenti di chi la pensa come me perdano quota perché la realtà è così distante da loro. Perde quota il nostro modo di costruire la nostra realtà. Cioè, io quando la sento parlare penso che aveva ragione Pasolini, che bisogna chiudere la scuola dell'obbligo per 5 anni, chiuderla e riaprirla dopo un terremoto culturale, mentale, spirituale, psicologico. Questo è il vero terreno della lotta politica, che stiamo a parlare sempre del consiglio d'amministrazione dell'Alitalia, il problema della vita, il problema del sesso, dell'amore. La nuova generazione, io sono d'accordo con lei, perché queste generazioni ce le stiamo perdendo via, perché non gli diamo attenzione, perché non le ascoltiamo, e allora poi corriamo ai ripari con i mali e con gli estremi rimedi di cui si parlava. Va bene, le do un bacio, se lei me lo consente, e le faccio ancora le congratulazioni per la imminente maternità. In bocca al lupo, e lei deve dire crepi. Arrivederci a tutti, a Camilla Rasnovich, a Giacomo Same Clodovici, a Maria Rita Munizzi e a Gianluca Peciola. Li ringrazio tutti, ne riparleremo in altre forme, in altre sedi, in altri luoghi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera. In regia Paolo Corleoni, Giorgio Mattei, grazie anche agli ascoltatori. Linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Baci, a domani.